Le mie conclusioni. Prima premessa: Trento ci ha messo secoli per arrivare alla edizione ufficiale degli atti. Io non ho fatto ancora l'edizione ufficiale delle mie conclusioni. Sono quindi nella fatica di leggere gli schemi arruffati che ho davanti. La seconda premessa: abbiamo parlato di dogmatica, dogmatizzazioni, e di censure e di anatemi. Io dovrò fare una serie di affermazioni di bilancio, non dogmi e senza anatemi. Che bella. Li snocciolo per aiuto. Primo, partendo dalla tua indicazione iniziale di Jedin e di Isalo, Trento con i suoi pronunciamenti, dobbiamo solo ripensarlo, è possibile anche integrarlo? Abbiamo risposto sì, anzi bisogna reinterpretarlo. Tema dominante in questi discorsi di questi due giorni, l'ermeneutica. E quindi, come avevo sottolineato, impone l'ermeneutica la receptio. Niente da solo nella Chiesa fissa una volta per tutte una realtà. Sempre reinterpretare. Se la Chiesa è sempre reformanda, perché non deve essere reformanda anche nelle formulazioni? Oggi questo problema rappresenta una novità, direi radicale. Non si tratta di aggiustamenti, un più o meno, ma di un tutto nuovo, un ambiente culturale nuovo, il quadro, i criteri. Secondo punto, o meglio, concludo il primo. Dunque, mi pare che da parecchie voci è risultato questo: è finita l'era che rende possibile, almeno facili, anatemi scomuniche. Meditiamo. Il Vaticano I, forse, il Vaticano II, forse, è il concilio più voluminoso, ma anche più importante per gli effetti che ha avuto nella storia, rivoluzionario, non ha pronunciato un anatema. Seconda affermazione, bilancio. Non è un assoluto, un dogma, è chiaro. Il perché si è riscoperta quest'era per cui sono finiti gli stop assoluti. Si è insistito sulla dimensione escatologica e quindi storica di tutto nella Chiesa. Non alcuni sono nella storia e gli altri no. Non alcuni aspetti. Escatologia, anche nello specchio della mistica. Ricordate, io ero intervenuto dicendo che con questa prospettiva escatologica mistica non abbiamo da fare i conti solo con i limiti, ma anche con inevitabili ambiguità e quasi errori, conflitti, peccato. Il peccato invade tutto. Ma anche questa motivazione apre all'importanza della intenzionalità, Ruggeri, la verità più adeguata nel campo della fede è l'intenzionalità. La fede tende a oltrepassare le formule di tutti i tempi, partendo da ogni formula, anche dal Vaticano I, Vaticano II, da Trento, per andare alla res. Quindi è importante il votum, è stato detto, l'orientamento prima che gli stop. Io credo questo, l'orientamento, la precomprensione, la reciproca fiducia nell'altro. Devi ammettere che almeno come intenzio in tutte le formulazioni ci sia a priori, ecco il famoso presupposto, che anche l'altro, tutti gli altri, forse più di noi, siano attivati da questa intenzio escatologica. Terzo elemento, ma io vedo che ho saltato altre cose, chi lo sa per cosa. Come realizzare questo superamento anche della insuperabilità della comunicazione verbale, concettuale, teologica, diciamo. Io sono contento che è stato sottolineato lo Spirito Santo, l'amore. Nella predica stamattina dicevamo questo. Bisogna recuperare la capacità di trascendimento dei limiti e dei peccati da parte dell'amore. Cioè l'altro, la coinonia, la devo realizzare integralmente, è l'unico avvolgimento che ci fa crescere insieme, anche se abbiamo i freni dell'incomprensibilità, è l'amore, è lo Spirito Santo. In questo senso, allora, ecco la vita, la testimonianza, l'actus credendi come esperienza, testimonianza come storia. Quarta osservazione. Questo primato della storicità, che è il campo di battaglia dell'ecumenismo, ma che difficilmente viene assunto, è difficile, capisco, l'agonia di tanti credenti, anche di pastori, la storicità fa paura, è uno spettro, si vorrebbe non essere nella storia, tutti i fondamentalisti, si vorrebbe non essere nella storia. Questa storicità va scandita, resa concreta, è fatta la storia di passato, di presente e di futuro. Ruggeri domandava da chi partire, dal futuro per capire il presente, se la linea è escatologica, se cammino, ma bisogna anche che accettiamo il fatto che dal passato dobbiamo pure attingere, è chiaro, dal futuro che deve restare aperto, ma anche dal presente. Quanto al passato, chi entra la storiografia? Ecco l'importanza di studi storici. Storici, forse meno questa volta rispetto al convegno di settembre, era un convegno più teologico. Però la storiografia come tale ha un grande valore. Anzi, addirittura abbiamo sentito in questo giorno che essa, appunto perché limita la sua attenzione per ricostruire il vero, del fatto di ieri impedisce di allargare, dice Farber Kreuz, le opposizioni. Cioè la storiografia arriva a mostrare che le divergenze, le contraddizioni sono meno grosse all'inizio, dopo sono diventate per altri motivi forse più gravi. Ecco, è l'importanza quindi di uno studio storico. Forse bisognerà studiare un po' di più la storiografia. Cosa vuol dire storiografia teologicamente? Io per esempio ho un mio pallino, cioè soprattutto quando la storia non è fatta di persone vive, imputabili di quello che dicono e fanno, ma è fatto di documenti anonimi, dove ciascuno dà un contributo, poi si ritira. E la realtà prodotta è un contenuto oggettivo che va avanti. Appartiene a chi? Non a chi l'ha prodotto. Per quanto l'abbia prodotto uno, farà l'interprete, ma domani sarà interpretato. Quindi c'è qualcosa nella Chiesa che viaggia oltrepassando i singoli presenti. Se qui non si fa leva a una concezione un po' più solidale di Chiesa e l'azione dello Spirito Santo, cioè un noi che trascende i singoli, non si può capire l'importanza di decifrare ciò che hanno fatto i nostri antenati, ma considerandolo anche nostro, una volta oggettivato. Beh, questo è un discorso da rifare per me, secondo me. È molto importante. Ho detto importante anche quello di attingere dal futuro, anzi qui condivido Ruggeri, che è il futuro che dice, quello scatologico, la veritas finalis, il giudizio finale, non si può anticipare. In questo senso, ecco, Ferrario ha reinterpretato una mia indicazione del primo intervento, quando dicevo che c'è ancora una tendenza a giudicare quella Chiesa che fa appello ai suoi testi, sì, ancora è una Chiesa che non tratta quei testi come testi universali, Invece c'è la tendenza, qualche altra chiesa, anche dopo il secondo millennio, separata dalla, di considerare questi testi come espressivi della Chiesa. Lui ha detto, la vera soluzione è che tutte le chiese accettino di considerarsi e donatrice all'universale e provvisorie e parziali. È il dramma accennato anche con il ricorso alle religioni non cristiane. Un domani la parzialità che qualche chiesa non vuole assumere come sua dimensione perché ha paura di offendere Dio e lo Spirito Santo, di non accettare che il già sia anche una ricchezza per la Chiesa e il non ancora sia solo un accidente, non volendo accettare questo, forse gli chiede per domani, eccetera, quando dovremo, e stiamo già affrontando il dialogo con le altre religioni e con gli umanesimi. Invece, ripeto, che sia importante anche saper partire dal presente, dal nostro presente. Mi sembra che in questo nostro convegno abbiamo mentito. Allora, ecco il quinto punto. Il presente ci ha fatto mettere davanti agli occhi, vi assicuro che anch'io non l'avevo prima così chiaro come in questi giorni, che il futuro è già anticipato in qualche maniera. Cioè, ormai, anche nella Chiesa Cattolica, sono stati posti dei fatti che delineano una svolta, che si tratta adesso di essere coerenti, non siamo ancora arrivati a trarre le conseguenze di alcuni fatti già dati. Non solo intendo fatti i dialoghi teologici che sono stati ammassati in quei documenti che abbiamo studiato in questi giorni, che sono stati riveduti, eccetera, ma anche i passi compiuti ufficialmente. Pensiamo a un Papa che ormai va incontro con gli altri. Ogni volta che va in giro per il mondo, avvicina i protestanti e li chiama fratelli ormai, fratelli. E poi con i musulmani. L'implicazione di questo fatto. Io qualche volta penso, quando vedo in televisione, o il Papa dice, poveretti, voi siete in buona fede, ma siete nell'errore. Oppure invece, se questo fatto ha un senso, vuol dire che l'intenzionalità di tutti viene messa un po' alla pari, sullo stesso piano. Tutti siamo cercatori della verità insieme, camminiamo verso una verità in pienezza. Utunum sint, tre citazioni della dichiarazione nostra etate, no, dignità di umane sulla libertà religiosa, come cammino di ogni uomo verso la verità. Questo era un quinto punto. Quindi siamo di fronte a una svolta grandissima, non direi di 360 gradi, ma di 180, perché 360 se torno allo stesso posto, bisogna rovesciare veramente. Anche. E in questo contesto bisogna anche ripensare l'autorità, ecco il discorso, che è un ripensamento profondo da aiutare, perché l'autorità si esercita come se fossi ancora dentro un altro contesto. Io credo qui dentro, nessuno, perfino Ferrario, ha negato l'importanza di decisioni dottrinali, pur nel provvisorio, nella storicità, nessuno nega l'importanza dell'astro. Secondo me manchiamo ancora di una riflessione coraggiosa, ma libera e umile sull'autorità, per offrirle anche indicazioni per il nuovo modo che non può più, abbiamo sentito, pretendere di armonizzare fissando una teologia per tutti, una formulazione per tutti, ma deve chiamare le varie tradizioni, anche nuove, che sorgeranno, i nuovi linguaggi, i nuovi itinerari, a saper stare insieme. Per me, guardate che è importante anche risuscitare Trento, tutti i concili passati, perché solo se avremo tanti altri, l'altro, con cui specchiarci, capiremo anche noi il nostro. Quindi non è che dobbiamo andare verso un'era in cui facciamo cimitero del passato, ma un'era in cui noi addirittura scopriremo le tombe, perché la vera verità è quella che noi lentamente scopriamo nello specchio di tante misure. Più teologie diverse, più decisioni dottrinali diverse, lasciamo stare gli antemi, noi terremo presente e più sarà aiutato il nostro camminare verso la verità. Ultimo dogma mio, senza anatemi, non è un dogma, che riassume un po', mi sembra, è stato accettato questa idea di un approfondimento sempre più radicale. Bisogna andare ormai all'uomo, Ruggeri ha indicato come ormai bisogna tener conto dei pre-calcedonesi. Io ho già accennato prima al fatto che anche oggi nel campo ecumenico, volendo un qualche cosa che ci unisca nella professione della fede, si è andato a cercare il simbolo niceno-costantinopolitano, Nicea. Ma io che ho partecipato a parecchi convegni ecumenici mondiali, so che il terzo mondo, i cristiani di Africa e di Asia, neanche di Nicea e Costantinopoli si accontentano. Si pongono prima, se gli orientali pre-calcedonesi vogliono andare alla radice biblica per ricominciare con essa a fare il proprio cammino, e non basta loro, non è importante per loro, pur riconoscendo per noi importante Efeso e Calcedonia, e vogliono Nicea e Costantinopoli, questi altri, un mondo intero sta avanzando, che chiede il diritto di ricominciare da capo prima ancora di Nicea e di Costantinopoli, con la Bibbia. Naturalmente noi dobbiamo dire a tutti loro, io mi ricordo che voi dovete però tener conto, il vostro credere diventa autentico nella misura in cui si confronta anche col nostro, ma appunto il nostro come altro, non nostro come normativo, normatività di confronto per un'autentica, come è una legge universale, è la legge antropologica, è la legge antropologica, tutti saper ricominciare da capo, ma non come fossero soli, isolandosi, ma come veramente persone sociali. L'idea sociale, è stato citato che la modernità è fatta anche di stati dove si raggiunge la pacificazione chiedendo alle chiese di rendersi un po' più umili. Io citerei Michel de Certeau, gesuita, storico francese, il quale diceva storiograficamente che l'ecumenismo autentico è cominciato quando si sono mossi gli stati laici e hanno obbligato le chiese, le confessioni, a mettersi d'accordo. Domani può darsi che questa sia la strada più battuta, quando avremo l'unità del genere umano realizzata anche a livello giuridico, a livello quindi praticamente l'alterità più autentica è quella più universale, che non ci deve disturbare, perché tutte le idee che hai detto prima tu, il Domb le ha dette in maniera da 4 anni, 5 anni, cioè ha detto che la vera identità si ha nel reinvestirla, e invece questa è la paura massima che abbiamo noi, abbiamo paura di perderci, non crediamo al Vangelo per ritrovarci. Gesù ha detto perdersi per ritrovarsi, non perdi te nella tua profondità, perdi te nei tuoi limiti. E per quanto riguarda, voglio citare ancora una volta qui, per quanto riguarda anche il dialogo con le religioni non cristiane, io ho in mente un libro di Thomas, il quale dice che bisogna avere il coraggio di rischiare Cristo per amore di Cristo. Il Cristo piccolo, nostro, vestito da noi, deve essere rischiato perché ci risulti davanti poi un Cristo più grande. Quindi abbiamo fatto questi giorni, concludo, un discorso aperto a tutti, stilettate contro anche un magistero di pastori, che forse è un po' troppo tridentino ancora, forse, ma in fondo alla fine dobbiamo dire che tutto questo dipende anche da noi adesso, da questo momento, anche perché cammini Trento e non diventi solo scomunicante, ma diventi comunicante, bisogna che ci mettiamo anche noi, ecco, piccoli spunti dogmatici, ma senza anatemi, speriamo. Non sia pulcro, la conclusione è splendida, vero? Non devo altro che adempiere al dovere protocollare, del resto Don Celestino, il Padre Celeste, ha già cominciato il ringraziamento a tutti, non posso che ampliarlo, vero? A Monsignor Sartori in particolare, che è stato con noi così, così spiritualmente vivo, è vero, in tutta questa giornata, e a tutti i collaboratori. Ecco, e faremo di tutto per sollecitare la stampa degli atti, perché ho l'impressione che abbiamo tutti bisogno di punti di riferimento in cui queste belle cose possiamo veramente farle nostre, e noi siamo in debito sia di questi atti come ancora degli atti del convegno di settembre, che per molti versi si intersecano col discorso fatto qui oggi. Ecco, circa i programmi successivi, che chi vivrà vedrà. Da un lato mi pare di ricordare che c'era un tema per l'anno prossimo, per questo convegno, che riguardava proprio il diritto canonico e una riflessione più di fondo. Io ho grattato un po' su questa faccenda della apostasia come formale dichiarazione della rottura della Chiesa, dell'unità della Chiesa, a prescindere magari dalla ortodossia. Ecco, certamente c'è materia, ma non so se matura questo. Mi è venuta un'idea quando Kurzel ha toccato questo tema delle sette, che potrebbe anche essere un tema nostro. Io quasi domanderei se sia il caso, semmai, di trattare le sette fuori e dentro della Chiesa, perché mi insegnavano una volta che c'è anche un tema perenne, de sectis in ecclesia dei, forse ancora oggi, ma se scotta troppo lasciamolo pure a quelli che hanno le mani più robuste che noi. Vabbè. Ecco, non ho altro da dire se non risalire anch'io all'epoca pre-nicena e ricordare al vivo quel che è stato lo stato d'animo che ci ha tenuti insieme in questa giornata. Ecco, dalle parole di Tertulliano, dove dice che appunto il far chiesa vuol dire communicatio pacis, appellatio fraternitatis e contesseratio hospitalitatis. Con questo animo auguro buon ritorno e insomma considero soprattutto lo stock degli amici perenni, vero, i teologi che sono già degli habitué al nostro convegno, come degli ospiti perenni, fraternamente sempre a casa qui da noi.